piccolino ero complicato, considerato uno sfigato, tu ben inserito, il favorito, a ginnastica ero un impedito, tu mito, io sgualcito, tu ben vestito, io tentavo di copiare tu maestro finito, io solo cantoni nelle orecchie, suo figlio non si impegna ma potrebbe, è l'unico sette nella condotta, tu pagella bella, io cartella rotta, io prima cotta che mi manda in botta, io è un'amica, tu lingua in bocca, era già chiaro per tutti che di quel passo saresti stato un leader, io nella foto di classe sono quello con gli occhi chiusi, tu sei quello che ride, sono nato sbagliato, non lo so più, sono io o sei tu, sono io o sei tu, sono nato sbagliato, dimmelo tu, a me non interessa più. Ricordo a 15 anni ero sempre in torto, in banca il conto in corto, tuo papà la barca in porto, io sconforto in corpo e un diploma da portare in fondo, ma il mondo ha un altro profumo nella tua scuola privata dove fai 3 anni in 1, tu sex appeal, io brufoli, tu muscoli, io tutto qui, tu motocross, io un deca di benza, tu con la tipa più carina, io senza, e ora lo ammetto che tu eri meglio, meglio, comunque la guardi, per non parlar del fatto che mio nonno era un contadino, il tuo aveva già i miliardi, sono nato sbagliato, non lo so più, sono io o sei tu, sono io o sei tu, sono nato sbagliato, dimmelo tu, a me non interessa più. Alle bandiere non faccio onore, tu militare, io obiettore, lavoratore, anche il 1° maggio tu ti fai la villa, io ho un tatuaggio, io rapper rock, tu leggi Fox, tu business talk, io coffee shop, io con la band, tu vuoi Cayenne, io zero eroi, tu cowboys e Superman, io non ho fiducia nell'istituzione, nella maggioranza, nell'opposizione, io sono il problema, tu la soluzione, tu sei il campione, io non gioco a pallone, sono nato sbagliato, non lo so più, sono